Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Noi sapevamo che mentre qui nascevano i bambini, nelle nostre stesse rianimazioni del policlinico morivano delle persone. E esiste sempre un collegamento tra la nascita e la morte, sono due eventi sacri e che vanno profondamente rispettati. Per noi è stato un grosso contrasto perché appunto colleghi che poi, mamme che non sono state bene, sono state in rianimazione, vedevano gli opposti. Ecco, però l'abbiamo vissuto proprio come un evento di speranza e di positività. Dice così Irene Spreafico, coordinatrice della sala parto della Mangiagalli. Qui, in questo ospedale, è stato istituito, grazie al contributo di Fondazione Rava, uno degli hub per le gestanti Covid. L'idea di dare forma a un'area isolata per le partorienti positive è nata praticamente due giorni dopo l'emergenza, mentre ogni cosa veniva stravolta dal Covid. Anche la gioia di un padre di abbracciare il proprio figlio appena nato, come racconta Cristina Corti, l'altra ostetrica capo del progetto Hub Maternità Covid-19. A me ha colpito in maniera particolare un parto che ha raccontato una nostra collega, perché appunto la signora è stata assistita da questa collega, ovviamente senza il marito però era in macchina e ha potuto attraverso il cellulare mettersi in collegamento, quindi vedere il momento della nascita, assistere anche a distanza al momento della nascita. La collega mi diceva che quando è nato il bambino lei si è messa a piangere assieme alla signora e assieme al marito. La sacralità della nascita messa dunque continuamente in discussione da questi eventi, con medici e infermieri impegnati a dare forma a una protezione anche emotiva. Ancora Irene Spreafico. Tra le prime storie che ci hanno colpito, appunto, mamme che sono arrivate in fase di malattia sintomatica, quindi non solo positive, quindi erano sintomatiche, quindi quando poi è nato il bambino hanno dovuto andare in rianimazione per un supporto ventilatorio, quindi praticamente la mamma era in rianimazione, il bambino era in terapia intensiva e il papà era a casa, quindi era una situazione di vita di grandissima, diciamo, di un'esperienza positiva come quella della nascita, però diciamo con una limitazione di relazioni familiari. Normalmente quando nasce un bambino si sprigiona una gioia per tutti, invece lì appunto è stata una cosa bella. Ecco, però la cosa che mi ha colpito è che in alcuni casi, quando le mamme erano sintomatiche e dovevano andare in rianimazione per forza di cose, ecco, c'era proprio questa situazione di isolamento tra mamma, papà, bambino, cioè nel nucleo familiare, e questo, diciamo, insomma, è stata un'esperienza un po' forte, anche se legata da molta speranza, ecco. L'Hub Maternità Covid ha percorsi ben definiti e nessun altro, eccetto i pazienti e i medici opportunamente protetti, possono accedervi, come mi spiega la dottoressa Alessia Bosco. Sono la coordinatrice ostetrica del reparto puerperio. Abbiamo 18 posti letto, suddivisi in 10 per gravide e puerpere Covid positive e 4 stanze da 2 letti ma uso singola per i casi sospetti. Allora, le implicazioni sono soprattutto a livello emotivo e psicologico da parte del personale e anche per la donna, perché vive una situazione comunque di solitudine, in quanto non può ricevere visite nemmeno del marito e quindi si ritrova in una situazione di fragilità particolare dettata sia dalla condizione della gravidanza che dalla condizione della patologia in cui è occorsa. È stata parecchio dura, anche perché è stata una situazione nuova per tutti da gestire. Noi non siamo abituati a gestire situazioni di isolamento da malattia infettiva, in quanto ci occupiamo di gravide e puerpere prevalentemente sane, anche patologiche, ma non da malattia infettiva. Quindi è stato abbastanza complesso, soprattutto il primo mese, diciamo. Poi la situazione è leggermente migliorata dal punto di vista emotivo anche dell'operatore sanitario, che ha accettato la situazione molto pesante, diciamo, inizialmente. Ci sono stati colleghi che si sono ammalati, ci sono stati casi? Beh, ovviamente sì, la maggior parte però contratti all'esterno. non all'interno, perché sono risultati positivi prima dei primi casi positivi che abbiamo avuto ricoverati. Solo due l'hanno probabilmente preso da colleghi, però non da pazienti sicuramente. Adesso che la situazione è un po' più tranquilla, state lavorando, avete una progettualità a lungo termine, vi immaginate qualcosa anche per l'autunno? Allora, da quello che si dice sembra che in autunno riesploderà un po' la situazione, però ovviamente nessuno ha certezze a riguardo. Adesso sicuramente è un periodo migliore rispetto a un mese fa. Ok, allora questo corridoio è l'area dei sospetti che dicevo prima, quindi sono quattro stanze da due letti ma a uso singola per le mamme di cui c'è un dubbio, magari hanno febbre, hanno mal di gola e ancora non abbiamo l'esito del tampone, piuttosto che abbiamo un solo tampone, ma i tamponi sono due per essere certi che siano negativi, quindi in attesa del secondo tampone stanno in queste stanze. Quindi questo corridoio è pulito, diciamo. E qui comunque da qui in poi io sono completamente vestita, ho sì. Tutto l'occorrente sì, per io essere... Io in questo corridoio entro anche così, perché tanto so che è pulito e so che non c'è rischio di prendersela in corridoio senza una paziente, quindi io entro serenamente anche così. Invece l'altro corridoio là dentro è tutto contaminato, sia il materiale, quindi i carrelli, che il corridoio proprio, e quindi là dentro deve stare bardata, attenta. Per una mattina resto dunque anch'io tra queste persone. Per accedere al reparto Covid mi viene data una divisa, un camice, due paia di guanti, mascherina, collare, cuffia per i capelli e visiera. Manca l'aria, i condizionatori sono spenti per precauzione. Una sofferenza nella sofferenza, come mi racconta la dottoressa Carmela Coppola, uno dei medici impegnati nell'area Covid. La sensazione che noi abbiamo è quella di sporco, la sensazione che hai è come se avessi bisogno di farti una doccia, lo fai perché noi abbiamo famiglie, abbiamo figli e quindi ci cadono i capelli banalmente perché stiamo sempre con le cuffie, con questi elastici che ci stringono, quindi è c'è una sofferenza nella sofferenza, perché comunque è un lavoro che fai con passione ma ha delle ripercussioni. Ognuno di noi dentro avrà una cicatrice di quello che sta succedendo, le avremo fisiche, le avremo anche nel cuore, perché abbiamo visto tante cose, abbiamo visto anche, noi siamo fortunati perché è un reparto che comunque è ancora, se vogliamo, protetto, ma vedere queste mamme, ecco, che hanno bisogno di conforto, hanno paura, hanno in grembo la cosa più importante che ci sia, e ti rende stanco, ma quello che ti rimane è questa sensazione che adesso l'hai vissuto sulla pelle, no? E vuoi solo andare a casa, farti una doccia e ritornare alla tua vita, che speriamo ritorni presto per tutti. Lavoro qui da poco, prima venivo dall'ospedale di Lodi, quindi io l'ho vissuta proprio tutta. L'ho vissuta con tutta nel clou, sono andata nel cuore e poi sono venuta di qua, che è un centro hub, per cui anche qui funziona così. A capo di questo progetto il professor Ferrazzi. Sono il professor Ferrazzi, sono il direttore della clinica ostetrica Mangiagalli, che è diventato da marzo uno degli hub, che vuol dire uno dei centri di riferimento per la regione Lombardia per le gestanti affette dall'infezione da virus Covid-19. Quante donne hanno partorito in questi mesi, appunto, di emergenza, di emergenza massima, da positive? Dunque, qui in Mangiagalli abbiamo assistito circa 61 signore con questa infezione. Per fortuna la maggior parte l'infezione è decorsa in modo asintomatico. Però ci sono state anche delle complicanze importanti ed è questa la ragione per cui il comitato tecnico della Regione Lombardia, di cui faccio parte per l'ostetricia, aveva appunto deciso di creare una rete di ospedali di riferimento per questa patologia, proprio perché quando si manifesta poi con le complicazioni bisogna intervenire tempestivamente. Quindi sono realizzati 7 punti di riferimento, che sono Pavia, Milano Mangiagalli, Milano Sacco, Bergamo, Brescia e Varese. in modo tale da creare una rete per tutta la regione di riferimento. Qual è la procedura che si mette in atto nel momento in cui arriva una donna che sta per partorire positiva al Covid? Allora, innanzitutto bisogna dire che in questi centri o riceviamo gestanti riscontrate positive per sintomi o per tampone negli ospedali, nelle normali 56 maternità della regione, o comunque noi all'ingresso tutte le gestanti che arrivano vengono valutate dal punto di vista clinico anamnestico, c'è una checklist, c'è una lista di segni e sintomi e di rischi di contatto che viene compilata. Quando la lista è positiva viene eseguito il tampone. Questo avveniva sino ad aprile. Da aprile in poi tutte le gestanti che accedono in questi ospedali viene eseguito il tampone nasofaringeo per identificare la presenza del virus, e quindi sostanzialmente questo richiede una procedura che dura circa dalle 4 alle 8 ore, e quindi abbiamo un reparto dove vengono collocate le signore sospette in attesa di tampone. Poi se il tampone è negativo ritornano nel percorso normale, se il tampone è positivo invece c'è un reparto dedicato con camere singole, in modo tale da poter avere la sicurezza sia per le donne affette, sia per le donne non infette, sia per il personale, di avere rapporti corretti con i sistemi di protezione adeguati nelle varie aree. I bambini appena nati, insomma, vengono allontanati dalla mamma, se mi racconta un po' come funziona. Funziona così in tutti gli ospedali Covid, sia della regione Lombardia sia italiani, perché la Società Italiana di Neonatologia e la Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia hanno, come dire, definito un percorso per cui la donna puerpera positiva ma asintomatica può allattare al seno e fare un rooming in e allattare al seno. La donna invece positiva e sintomatica, vuol dire dispnea, polmonite e quant'altro, il bambino viene separato proprio per evitare che la carica virale importante della madre possa in qualche modo poi interessare anche il bambino. Questo in un reparto appunto di ostetricia, come è stato vissuto? Beh, dunque, dal punto di vista emotivo è chiaro che la donna, la puerpera che ha avuto una polmonite e che l'ha portata al cesareo o al parto, chiaramente la sua prima preoccupazione assieme a se stessa è la preoccupazione della salute del bambino, quindi alla misura in cui lo si separa per questa ragione, ma nello stesso tempo si preleva il latte, si dà il latte al bambino, ecco, questo viene vissuto positivamente in realtà. È chiaro che è qualcosa di meno di quanto dovrebbe essere normalmente l'abbraccio e vivere le prime ore, i primi giorni assieme, però insomma credo che qualunque mamma si preoccupi della sicurezza e della salute del bambino. L'allattamento al seno è importante perché naturalmente il latte contiene gli anticorpi contro il virus e quindi è un fattore di protezione per il bambino, sia per la donna asintomatica sia per la donna che invece ha complicanze, però si cerca di favorire l'allattamento con latte naturale. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. L'emergenza Covid non ha risparmiato nessuno. Così anche le donne che stavano per partorire sono spesso risultate positive. E alla Mangiagalli di Milano è stato pensato e poi è stato messo in piedi un hub per dare loro assistenza, proteggerle e proteggere anche le altre neomamme. Si tratta di fatto di un'area isolata dell'ospedale, con percorsi isolati, e il clima che si respira all'interno è purtroppo di grande solitudine. Le neomamme non possono infatti avere contatti col proprio compagno o con la famiglia. A tenere alto il morale ci pensano però le ostetriche, i medici, gli infermieri, che in un quotidiano fatto anche di grande fatica garantiscono quello che potrebbe sembrare superfluo, come ad esempio fare video, condividerli coi familiari delle mamme, come raccontano e come ci racconta Irene Spreafico, coordinatrice della sala parto della Mangiagalli, che mi descrive anche come è nato l'hub. Cioè, noi lavoriamo in un team molto, molto unito. Nel giro di due giorni da quando è scoppiata l'emergenza abbiamo dovuto lavorare giorno e notte per proprio rivedere i percorsi e adattare una situazione nuova con molta flessibilità alle nuove esigenze dettate dalla pandemia e dal Ministero, assicurando un parto felice in sicurezza, con quindi l'educazione al personale, tutto l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Abbiamo lavorato anche di notte per fare i video al personale. Per il personale all'inizio era molto spaventato e quindi appunto abbiamo dovuto fare un lavoro di ascolto, di contenimento, soprattutto di formazione per la parte di vestizione, svestizione e principalmente di presenza. Ecco, io e Cristina con il professore, tutti siamo stati presenti credo 24 ore su 24 per accompagnare il personale ed essere e dare sempre sicurezza e qualità in uno dei punti nascita più importanti d'Italia. E poi questo silenzio, no? Non entravano più i parenti, non c'erano i papà, anche questa parte c'era nella quotidianità. Allora, nella quotidianità noi abbiamo sempre garantito ai papà di entrare, nelle mamme Covid positive, solo nel momento del parto. In sala parto, questa è una sala parto tra le più importanti d'Italia, quindi sono presenti 9 sale parto con 3 sale operatorie all'interno della sala parto e 2 aree di osservazione post-parto e una zona pre-parto dove accogliamo ancora mamme che non sono in fase attiva di travaglio con 8 posti letto. Quindi abbiamo organizzato appunto l'accoglienza delle mamme Covid positive dedicando 3 sale parto delle 9 alle mamme Covid positive, creando una zona filtro, quindi, e poi una sala operatoria dedicata con un percorso dedicato, quindi vuol dire con un percorso dedicato dal pronto soccorso alla sala parto e dalla sala parto al reparto di isolamento con un ascensore dedicato, con procedure che sono state scritte in una settimana e con formazione che è stata fatta ad hoc per tutto il personale addetto all'assistenza delle mamme. L'idea di dare forma a un'area isolata per le partorienti positive è nata praticamente 2 giorni dopo l'emergenza, mentre ogni cosa veniva stravolta dal Covid, come racconta Cristina Corti, l'altra ostetrica capo del progetto Hub Maternità Covid-19. Il contatto dell'ostetrica con la donna non è solo un contatto fisico, è anche un contatto visivo con gli occhi. A volte il contatto si stabilisce prima con gli occhi che con la fisicità. E in quel modo si crea una sorta di rapporto empatico in cui la donna capisce che l'ostetrica è lì presente con lei e che l'accompagnerà in questo percorso, tenendo presente che in questi casi erano donne che non potevano avere il compagno accanto, ma accanto avevano appunto solamente l'ostetrica. E l'ostetrica stessa dà un supporto emotivo alla donna, anche se il contatto fisico viene, diciamo, messo in secondo piano. È più un contatto fatto di sguardi, di complicità, esatto, di intenti, anche se non viene manifestato con il tocco. Poi c'è ovviamente la parte comunque di tocco, perché la donna viene comunque visitata, viene toccata, il neonato viene accolto dalla mamma ma anche dall'ostetrica, per cui questa parte è stata gestita in assoluta sicurezza, ma è stata comunque esperita, non ci sono stati parti, diciamo, asettici, ecco, esattamente, prendendo il termine tra virgolette. Quella del Covid è anche una storia che ne racconta altre. La più dolorosa è sotto i nostri occhi ed è quella che parla di un virus che colpisce i più poveri. Ci spiega così il professor Ferrazzi, direttore della Mangiagalli. Più che le storie, direi che quello che è risultato molto molto forte a Milano è che purtroppo la maggior parte delle gravide che hanno avuto complicanze che le hanno portate a dover necessitare il supporto respiratorio, di ossigeno o di altre procedure di terapie complesse sono donne di prima immigrazione nel nostro paese. La ragione per cui questo è avvenuto è da ricercare probabilmente nelle stesse cause che abbiamo letto, sentito nei telegiornali, avvengono in Inghilterra, negli Stati Uniti, cioè sono donne che hanno uno stile di vita purtroppo legato al livello socio-economico, quindi hanno un'alimentazione inadeguata, sono obese, sovrappeso, vivono in ambienti in cui il famoso lockdown non ha consentito il distanziamento sociale, sono a case piccole con più persone, quindi noi sappiamo che questo virus ha colpito e creato focolai soprattutto nelle comunità chiuse, no? Le navi da crociera, le chiese, le associazioni, gli eventi sportivi ripetuti, quindi ugualmente questo avviene nelle case dove ci sono più persone che vivono assieme, magari uno è infetto, asintomatico, però lo scambio del virus è continuo. La gravidanza nel terzo trimestre, tutte le gravidanze, proprio per arrivare al parto, è una condizione debolmente, come diciamo noi, pro-infiammatoria, quindi il virus trova a quel punto, a 30, 32, 38 settimane di gravidanza, una situazione favorevole, cioè dei polmoni che sono già debolmente infiammati dalla gravidanza e dal sistema cardiovascolare in gravidanza, e quindi se a questo si aggiunge l'obesità, se a questo si aggiunge una carica virale aumentata, ecco che di fatto delle pazienti gravi che noi abbiamo avuto, la maggior parte sono appunto donne gravide di prima immigrazione. Il virus ha colpito in maniera diversa le diverse classi sociali, non perché se lo sceglie e va a controllare il reddito, ma perché di fatto il lockdown in ambienti chiusi, perché di fatto un'alimentazione inadeguata, uno stile di vita inadeguato, l'obesità porta a forme gravi di malattia. Non è un caso che negli Stati Uniti oggi siano il paese che sui 500.000 morti nel mondo ne ha fatti oltre 100.000, perché come sapete l'obesità negli Stati Uniti è epidemica, quindi il 50% delle donne è obese, molto più del 50% negli strati sociali bassi e poco socialmente integrati. Oltre al personale, in prima linea in questa storia c'è anche il mondo del volontariato. In questo caso un ruolo importante lo ha giocato la Fondazione Rava, di cui Maria Vittoria è presidentessa. Il progetto del Lab, iniziato a Milano, è diventato ora un progetto nazionale. Quando finalmente non si contavano più soltanto i morti, ma si riusciva a intravedere una rinascita, siamo stati contattati da quegli stessi ospedali che ci avevano chiesto di dare priorità all'aiuto nelle terapie intensive per rispondere a un altro bisogno. I bambini continuavano a nascere e si parlava finalmente di numeri di vita, di luce, di rinascita, di speranza. La Fondazione Francesca Rava ha voluto rispondere subito al bisogno di dotare questi reparti maternità di percorsi di nascita sicuri che permettessero alle mamme positive di essere assistite con percorsi e apparecchiature per la diagnosi Covid e per le patologie materno-infantili, con particolare tempestività, e proteggere le mamme non positive che comunque sono arrivate in ospedale dal possibile contagio. Il momento più bello in assoluto della vita, che è quello della nascita, non poteva diventare un momento di pericolo, è un momento di pericolo per la vita della mamma e del proprio bambino. Così la Fondazione ha iniziato con Lab Maternità presso l'ospedale Policlinico, Clinica Mangiagalli, e Lab Maternità presso l'ospedale Sacco. Abbiamo poi proseguito in altri 6 ospedali in tutta Italia, Reggio Emilia, Torino, Roma. È stato commovente ascoltare dai primari di questi ospedali quanto questo aiuto sia stato fondamentale. Abbiamo ricevuto la risposta generosa di medici, infermieri, professionisti che hanno lasciato la comodità della loro casa e anche la pensione per ritornare, anche rischiando la propria incolumità, ad aiutare i loro colleghi in difficoltà. Tra i medici di cui parla Maria Vittoria Rava c'è anche Francesca Di Cosmo, ostetrica, che ha lavorato per tantissimi anni in Mangiagalli e che ora era in pensione, ma è tornata al lavoro come volontaria appunto per la Fondazione. Una donna schiva che fa quasi fatica a riconoscersi il suo grande valore. Il lavoro come ostetrica l'ho svolto ancora dove ho sempre lavorato, in Mangiagalli. Ho ritrovato alcune colleghe. Svolgo l'attività quotidiana della sala parto quando le colleghe più giovani sono impegnate con le pazienti Covid.